Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Tu, Irina, ha menzionato un grande nemico oggi del matrimonio, la teoria del gender. Oggi c'è una guerra mondiale per distruggere il matrimonio. Ci sono, ma no, non si distrugge con le armi, si distruggono con le idee. Ci sono colonizzazioni ideologiche che distruggono. Tu? Ma che cazzo stai dicendo? Non ti credo quando se ti vedo. Sì. Dove, come, quando? E spiega. Spiega, dicimi. Ah, perché loro lo sapevano. No, non, ma niente di che. Adesso qualcuno mi manderà gli anatemi, mi scomunicherà, manderà gli esorcisti sotto casa, dirà che sono blasfemo. Però aspettate che finisca la premessa. Nello stesso giorno, identico, con lo stesso tipo di penetrazione, di efficacia, nei social media, che sono il luogo in cui comunque gli italiani, soprattutto il sabato, che è il giorno più neghittoso, passano il loro tempo, soprattutto un sabato in cui c'era un clima, il primo sabato di ottobre, triste, spiovicicava, ormai l'estate radicalmente era finita, quei pomeriggi in cui non sai che fare, non sai come, tutti i programmi sono andati a monte perché il tempo te li cambia, ti rendi conto che nulla è più come prima, è tutto appassito, tutto passato, insomma un sabato neghittoso, un neghittoso sabato italiano d'autunno. Arrivano ai social network due messaggi contrastanti che trattano però più o meno la stessa materia. L'uno è quello che passerà alla storia come il messaggio georgiano del Papa. Il Papa improvvisamente butta la maschera e dice: esiste la teoria del gender, è la guerra mondiale contro il matrimonio. Teoria del gender, ne abbiamo parlato già ampiamente, una delle più grosse bufale inventate ultimamente, che vorrebbe dire, la sintetizzo, che esiste un grande complotto internazionale nella gayizzazione dell'umanità. Quindi l'umanità deve essere gayizzata sin dalla culla, quindi a scuola i bambini insegniamo che è bello svegliarsi la mattina sono donna, la sera dire sono uomo e via dicendo. E naturalmente questo nessuno può pensarlo, ma non possono pensarlo nemmeno i gay più conclamati. Che gusto c'è avere un mondo in cui tutti sono gay? Non c'ha più senso, capito? E il Papa ha detto che questo è il primo motivo di distruzione fine del matrimonio. Contemporaneamente arriva, non me ne voglia nessuno, chiaro che c'è un rango di esistenza e dignità diversa, però è arrivato allo stesso posto e tutti lo commentavano con la stessa foga, la stessa veemenza. Stefano Bettarini e Clemente Russo, dentro la casa del grande fratello VIP, fingendo che lo fanno in maniera del tutto neutra, ma probabilmente d'accordo con gli autori, con gli editori, con tutti, snocciolano quello che è un altro pericolo che dissolve il matrimonio, che è l'istinto puttaniere. Bettarini si vanta, come si vanta ogni cialtrone naturalmente, con l'amichetto di merende, del fatto che mentre era sposato con Simone Ventura l'ampiamente, lungamente, godurosamente cornificata, ma non basta, fa l'elenco di tutte le persone con cui ha fatto questo fatto, rendetevi conto, persone che hanno una loro vita, hanno loro storie, che hanno probabilmente avuto, vero o falso che sia, non ci interessa, la debolezza di passare un momento di passione con Bettarini, sono viste svergognate, raccontate nei minimi particolari, tua con la schedina sulle qualità dell'adulterio. Ora io mi trovo di fronte a un dubbio, visto che entrambe le vicende hanno appassionato gli italiani, visto che gli italiani sono comunque pronunciati nei social media. Oggi chiedo a voi, secondo voi qual è il vero pericolo dell'unione stabile? Non parliamo di matrimonio, che è un'istituzione, dell'unione stabile. Da una parte questa sorta di deriva di genere, per cui la gente alla fine considererà indifferente il genere e la persona con cui passa la vita, quindi l'idea stessa, se io sto con un uomo e sono una donna, sto con una donna e sto con un uomo, questa cosa non ha più senso, perché può essere ridiscussa completamente, o il vecchio, antico, detestabile senso della lussuria adulterina. Quali sono queste due cose? Perché tutte e due non possono convivere. O è il gender, e quindi è l'infinocchimento dell'umanità che farà sì che finirà il matrimonio, o è la compulsione alla sessualità multipla, che alla fine non rende più plausibile questa istituzione che vorrebbe due persone per tutta la vita stanno assieme e si sono fedeli. 800 24 00 24. Io sono solo, aspetto che voi pronunciate. A tra poco. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Non c'è solo il conflitto mondiale che distrugge vite umane e interi paesi, c'è un'altra guerra altrettanto planetaria che viene combattuta contro il matrimonio. Dalla capitale georgiana Tbilisi, Papa Francesco lancia un allerta esplicito quanto mai in passato. È in corso una guerra ideologica, una colonizzazione delle idee, dice, basata sulla teoria del gender, così l'ha definita il Papa, che mette in pericolo l'esistenza stessa del matrimonio tra un uomo e una donna, che dà fondamenta alla famiglia, la cosa più bella che Dio ha creato. E anche il divorzio è un modo di sporcare questa immagine divina, un appello lanciato al mondo. Certo, fa specie a sentire con quale serietà, senza la minima inclinazione del dubbio, vengano riferite le parole del Papa, che non so, probabilmente poi si è reso conto che forse era andato un po' oltre citando la teoria del gender, che da un punto di vista sia scientifico sia reale sia storico è totalmente stata smentita. È una cosa che ideologicamente regge perché si vuole in qualche maniera far pensare, far credere che esista un fondamento scientifico sul fatto che uno si sveglia e poi può decidere, magari crescendo, se può essere uomo o donna. Non è esattamente questo, non è questo che si fa nelle scuole italiane. La teoria del gender è sempre stata impugnata come uno spauracchio, come qualcosa che deve comunque far mettere nelle persone il timore che qualcosa stia minando alla base l'ordine costituito, l'ordine naturale. Ma non voglio entrare in merito a questo, mi interessa fino a un certo punto. Però è stato paragonato a una sorta di guerra mondiale, mi scrive subito un ascoltatore, certo è un po' fortina, la guerra mondiale è l'ultima, ha provocato 60 milioni di morti. Ora, ammesso che qualcuno possa avere qualche incertezza crescendo su quella che è la sua vocazione relazionale, sessuale, emotiva, prima che muoiano altre 60 milioni di persone per questo, ce ne vuole. E d'altra parte Bettarini è diventato il bersaglio numero uno di tutto il ben pensantismo della rete improvvisamente, cioè tutti quelli che hanno sempre inzuppato il pane ampiamente sulle corna, le stracorna, i pettegolezzi, il gossip dei personaggi famosi, improvvisamente sono diventati i giustizieri di Bettarini, che fanno un'operazione scellerata. Semplicemente, come ho sempre pensato e detto, la televisione in sé non è malvagia, cattiva, non distrugge nulla, è semplicemente un occhio implacabile su alcuni aspetti che noi simuliamo, che noi ipocritamente teniamo nascosti, della nostra esistenza. Bettarini, insieme a Clemente Russo, fa quello che fanno tantissimi uomini quando sono soli, quando giocano a calcetto negli spogliatoi, quando vanno a bere la birra con gli amici, quando si confidano, quando raccontano, quando portano le prove, quando portano le foto, si vantano delle loro conquiste femminili, come se fosse un loro merito, come se conquistare una donna fosse una tacca sul Winchester. Quando tu pensi di conquistare una donna che in realtà in quel momento ha deciso che voleva passare con te qualcosa che può andare da un semplice atto sporadico e fuggevole compiuto su una scrivania fino a una storia d'amore che può durare anni, quindi qualcosa di vecchio, ma messe insieme sembrano quasi coincidere sul fatto che qualcosa non funzioni più. Allora cos'è? Chi è secondo voi il vero nemico dell'unione stabile? La teoria gender, l'indifferenziazione del genere, la sessualità che ormai è diventata non più definita, o questa ipersessualità di Bettarini che comporta la compulsione? Non si può stare assieme, perché figurati, non mi fermo a una persona, ne voglio tante. Fabio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletti. Fabio, senta, secondo lei è abbastanza chiara come ho posto la domanda o devo specificare meglio? Perché può sembrare un po' confuso, ma mi sembrano in contrasto queste due idee. Da una parte è l'ipermacio compulsivo, che può essere anche l'iperfemmina compulsiva, e d'altra parte l'idea che a un certo punto saremo totalmente disinteressati alla coppia così come è pensata, perché? Perché andremo a derive del tutto fantasiose e imprevedibili. Dunque, io sono rappresentante di un movimento cattolico, quindi do la versione cattolica. Ma dia la sua, non ponga davanti. Sì, è la mia, è poi la mia. E io penso che la teoria del gender sia uno dei metodi che il maligno sta usando per distruggere la famiglia. Non è l'unico metodo, ma è uno dei metodi. E in pratica, sì, scusi, mi spieghi in pratica come funziona? Io sono curioso, creda, non ho preconcetti, sono curioso, voglio capire esattamente. Funziona così, allora glielo spiego subito. Allora, seconda lettera di San Paolo ai Tessalonicesi, no? Sì, ma non mi citi le fonti. Aspetti, preistoriche, parliamo di attualità. San Paolo preannuncia la caduta del catecon. Il catecon che cos'è? Il catecon è l'insegnante che spiega all'uomo, no? come arrivare, come raggiungere la pienezza e raggiungere il bene, Dio e il paradiso, ok? Il catecon da cosa è individuato? Qua, cioè, cos'è il catecon? Il catecon è, secondo una interpretazione ultima e moderna, è la famiglia nel suo processo di educazione, la Chiesa nel processo di redenzione e santificazione. Sì, sì. Ok? Sì. Mi sta seguendo? Sì, sì, no? La seguo. Lei parla come un libro stampato, per questo la trovo poco lontano dall'esperienza. Se lei leva la famiglia, leva l'educazione ai figli. I figli pensano che uomo uomo, donna donna, donna uomo, uomo donna sia la stessa cosa. Ma solo quello è il problema. Elimina l'educazione, il mondo finisce. Ah, va bene. Questo è il suo... Ma è spesso il suo... Adesso ho capito. Questa cosa però è la teoria del gender che crea questa confusione. I metodi che Satana sta usando per distruggere la famiglia. Però mi faccia dire una cosa importantissima, che è questa. Nel 1944, in provincia di Bergamo, in una frazione che si chiama Ghiaie di Bonate, ci fu un'apparizione mariana durante la Seconda Guerra Mondiale, dove la Vergine e la Santa Famiglia apparvero a una bambina di 7 anni che si chiamava Adelaide Roncalli. Sì. E tutto quello che sta accadendo adesso fu preannunciato da questa apparizione. Caso strano, la Chiesa Cattolica l'ha distrutta questa apparizione, cioè la diocesi di Bergamo l'hanno ridotta al nulla, quindi devo dire che all'interno della Chiesa c'è qualcuno che vuole che la famiglia finisca. Va bene, Fabio, lei ha espresso una teoria molto articolata, la sono stata ad ascoltare, però si renda conto che è limitata a una visione della vita, non può essere assoluta. Lei dice la bambina che ha visto la Madonna, a me mi fa sorridere la bambina allora, vede la Madonna, quindi ne prendo senso, però fermiamoci Fabio, sennò facciamo Radio Maria, è un'altra storia. Lei ha detto il suo pensiero, l'ha radicalizzato, l'ha espresso. Jacopo. Sì, buongiorno. Allora, io ho ascoltato anche il discorso del Signore, cioè, apprendo, ma non condivido, perché se dobbiamo farne poi un discorso evolutivo, testamento, cioè l'omosessualità è sempre stata in ogni aspetto della vita, non solo sociale, degli esseri più intelligenti. Ma so anche dentro la Chiesa, poi, mi sembra sia ampiamente certificata, esistente. Esatto, cioè, esatto. E non dobbiamo... Se c'è un luogo dove la teoria del genere è quasi legge, sono sempre stati conventi e seminari. Comunque andiamo avanti, non ne voglio dire questo. Andiamo al punto, non è una trasmissione sull'omosessualità, è sulle due diverse chiavi di dissoluzione della coppia indissolubile. Ok, secondo me la famiglia non l'ha distrutta questa teoria, che può essere cavalcata da un'onda emotiva, da un'onda mediatica. Sì, cosa? La famiglia secondo me viene distrutta da un principio solo, che è la cultura e la mancanza di istruzione da parte delle persone, dei bambini che crescono e vengono istruiti a non rispettare, oppure non vengono istruiti a non rispettare il diverso, perché in questo mondo se una persona manifesta un comportamento diverso è pericoloso. Ma sì, io però scusi Jacopo, lei la mette tutto su, la domanda è molto secca. Secondo lei il vero nemico della coppia fissa è la deriva della gaiezza universale o l'istinto puttaniere, quindi la compulsività? Come dicevo prima, è più facile vantarsi di andare a troie piuttosto, scusate il termine, che dire a un amico: guardi, io non lo so, provo un'emozione diversa, se mi sento omosessuale o si fa Audi. Vabbè, è più facile quello. Sì, ho capito. Lei ognuno, qua abbiamo presentato due posizioni antitetiche. Sentiamo se Paolo riesce a portarmi la domanda, la ripeto. Secondo voi cos'è che veramente in questo momento è il nemico della stabilità coniugale, di coppia, chiamiamola come vogliamo? La deriva di genere oppure l'antico istinto all'esperienza sessuale, sentimentale? Insomma, dici, perché devo sempre stare con una persona quando la mia curiosità va verso altre mille? Paolo, vediamo se riusciamo a capirlo. Buongiorno. Il nemico vero è quello che non si interessa del destino dei minori, è quello che non ha nessuna cura di chi non si può difendere. Peraltro la sua trasmissione, in questo caso, o quella di ieri tra le persone di età diverse che si volevano bene, il figlio era considerato un oggetto. La verità è che non si parla mai dell'interesse dei minori, forse non l'avrò seguito abbastanza, però questa era fortissima la mia impressione. La ringrazio. Va bene, dice che in realtà è l'esito dell'unione di coppie di cui non si ha rispetto. Però ancora nessuno mi ha risposto, nessuno mi ha detto chiaramente e seccamente se secondo lui il fatto che oggi questa istituzione che esiste sulla carta, che chi difende e chi denigra, chi considera ormai qualcosa appartenente al passato, chi la ritira fuori rifacendosi alle lettere di San Paolo, non sa dirmi esattamente qual è il vero nemico. Il nemico è che oggi viviamo in una civiltà più articolata anche dal punto di vista della relazione, quindi ci rendiamo conto che è molto difficile, senza prendersi in giro, dire io tutta la vita la condividerò con una persona dal punto di vista sentimentale, dell'esperienza, del piacere, della fedeltà e via dicendo, oppure questa cosa è finita perché ormai non esiste più un rapporto fra uomo e donna, ma esiste una fantasiosa composizione della propria emotività che se oggi sto con una donna domani magari mi viene voglia di stare con un uomo. 800 24 00 24, a tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Quando una persona che ha questa condizione arriva davanti a Gesù, Gesù non gli dirà sicuramente vattene via perché sei omosessuale. No. Quello che io ho detto è quella cattiveria che oggi si fa nell'indottrinamento della teoria del gender. E domandò. Questo è il Papa che il giorno dopo ci ha rimesso un po' una pezza dicendo ma no, non dicevo questo, se l'omosessuale incontra Gesù, Gesù non gli dice di no. È che purtroppo nella sua strada quotidiana, prima di incontrare Gesù, incontra gente che lo tratta male, lo discrimina, lo prende a schiaffi, pugni, lo fa sentire in qualche maniera con qualcosa in meno, nella più diffusa delle accezioni. Poi mi direte ci sono anche quelli che hanno una grande fortuna nella vita e possono dichiarare il loro orgoglio di essere così, ma non è questo il tema. La domanda la faccio diversamente. Il Papa da una parte e Stefano Bettarini dall'altra ci ha posto un bivio. Qual è il vero nemico dell'indissolubilità della coppia? Da una parte la gaiezza, come dice il Papa, la teoria del gender, l'indottrinamento, dall'altra parte la carne che è debole, come ci fa capire Bettarini. La coppia è in crisi, la coppia stabile, il matrimonio, l'unione stabile, l'unione fissa. Perché? Perché ci siamo resi conto, un po' per i social network, un po' perché il cambiamento della vita, che in realtà possiamo ogni giorno avere un'infinità di altre esperienze, di passione, di vita, di piacevolezza, quindi perché dobbiamo stare sempre con la stessa persona, non ci sta. Oppure perché ormai abbiamo capito che oggi ci svegliamo bianchi, non possiamo andare a letto neri, risvegliarci grigi, come dice il Papa, e quindi siamo ormai avvelenati da questa sorta di idea che non esiste più la polarità, quindi uno si sposa con una donna, però magari la mattina dopo si sveglia, si accorge di essere uomo, o viceversa, potrebbe anche essere questo. Non ho preconcetti, non ho pregiudizi, non ho esperienza, figuratevi, io faccio una vita reclusa da povero monaco, sto sempre dentro uno studio radiofonico, in una redazione, che ne so io di questa roba? Ditemelo voi che avete la fortuna di poter vivere. Stefano, buongiorno. Stefano, ciao, sono Stefano, buongiorno a te. Ti ringrazio per avermi accolto nella tua trasmissione. Beh, questo ascolta, è un termine da preti, accolto. Ti faccio parlare che dici cose intelligenti, secondo me, dai. Niente, allora, ascolta, brevemente, io ho 32 anni e chiamo da Reggio Emilia. Sto da 8 anni con la stessa persona, una donna, sono eterosessuale. E sono andato vicino al tradimento, sostanzialmente ci ho girato intorno, ma penso che il pubblico possa capire. No, non ho capito io, scusa, io nella mia ingenuità. Se sei stato tentato da qualcuna che ti ha fatto. Sono stato pseudo tentato e ci ho girato un po' intorno. Senti, mi spieghi una cosa, tu che non ho concluso. Tu che hai avuto esperienza, qual è il sintomo che uno sa, cioè ti senti improvvisamente una vigoria inaspettata nelle parti basse, non ci pensi? Qual è il campanello d'allarme che stai per tradire? Il campanello d'allarme è il lasciarmi andare all'infinita possibilità di scelta, ok, che si ha oggigiorno, con tutta una serie di strumenti che non sono per forza i social, ma è anche avere a contatto con la gente o fare un lavoro brillante, questo che diventa in un attimo più forte del, diciamo, consapevolezza e della strutturalità con cui tu ti sei costruito una vita a casa nel tuo ambiente. Ma dopo, ok, nel mio caso essere stato tentato, mentre invece penso nel caso di chi conclude e tradisce effettivamente, va a distruggere tutto questo nel nome di adrenalina, di una, possiamo dire, di un sentimento, di un'emozione che ha un termine molto molto breve, e questo distrugge qualcosa che tu invece tenti di, diciamo, far rimanere solido per una vita intera. Quindi è colossale, clamoroso che una persona che ha degli obiettivi, vuole costruire qualcosa di solido e in un lungo tempo, che poi produrrà altro, in questo caso progenio, adozione o dir si voglia. Comunque tu hai fatto un investimento, hai fatto un investimento e vuoi, diciamo, mantenere, fare tesoro del tuo investimento. Dici, se poi esco vanifico anni comunque di tenuta. Certo, questo va bene finché siete in due a condividere questa visione, perché se molla uno poi dopo è un disastro, questo renditene conto. Deve esserci un contatto continuo di grande fiducia. Però è chiaro, diciamo, la tentazione per te è la tentazione ancora quella della carne debole. Tu hai saputo resistere sulla carne debole, quindi dici, mi tengo quello che ho perché ci ho investito e nemmeno voglio entrare nell'idea. Molti altri non ce l'hanno, ecco, o lo perdono, e io ho la fortuna di aver visto chi ha fatto e ha perso e cosa poi non ha più avuto. Quindi ho fatto tesoro dell'esperienza degli altri per dire, io così... Sì, non saprei manco quello che ha avuto, però... Stupidata. Scusa, non saprei manco quello che ha avuto in cambio. Questo non te lo vengono mica a dire, però va bene. Non so, però la medaglia a due facce, bisogna certo. scegliere. E uno si piega che so, uno dice, scegli, voglio un buon minestrone nutriente tutte le sere e me lo mangerò per tutta la vita. Ogni mattina mi sveglio, diciamo, vediamo un po' oggi cosa passa al menù. E sono due punti di vista. Antonio. Sì, buon pomeriggio. Permesso che io sono un cristiano cattolico, ma con questo non voglio dire, io accetto qualsiasi idea, compresa anche quella, come dice anche il Santo Padre, quella dei gay, dei eterosessuali, per carità. Però la mia esperienza di vita, la mia personale esperienza di vita, che sono 34 anni che sto con la stessa donna, ringrazio il Signore che me l'ha messa davanti, questo non significa che sta... facile, ma io dico sempre, molto più facile fare sesso con mica chiunque. Tanto, adesso ne è facilissimo, tranne che uno non ce l'ha monco, non c'ha problemi, insomma, per me sarebbe molto semplice fare sesso con le persone che mi piacciono, ce ne sono tantissime intorno. Cioè lei in 34 anni ha avuto... Il difficile, scusami, è amare una donna, amare un uomo nella stabilità di una relazione, che per me è il matrimonio, e per me questo è un dono grandissimo. Quando il Papa dice, attenzione, che ci sono diverse ideologie. Scusi, Alfredo, fermo un attimo. Io finora ho solo dichiarazioni di splendore. No, io ti porto la mia vita pratica. Ok, ma perché allora? Sì, ma perché succede a te, ma perché non succede anche agli altri? Fammi capire. Perché probabilmente a me il Signore, al quale io credo, mi ha tenuto una mano sulla destra. Qualcun altro probabilmente ha altri modi, ma io non qualcun voglio altro ha tenuto una mano dall'altra parte. Ognuno è libero di scegliere la propria vita, no? Io ti porto la mia esperienza in una via di relazione vissuta di 34 anni, che è una cosa stupenda, meravigliosa, e ringrazio il Signore che mi ha messo questa donna davanti. Non giudico gli altri, ognuno fa il suo percorso, ma come io non giudico il gay, come non giudico Alfredo, non la voglio tagliare, ho capito, io voglio avere una varietà di pareri, vorrei soprattutto avere pareri di donne. Non chiamo una donna tutte le volte che pongo dei problemi legati alla sfera personale della relazione, del matrimonio, dell'intimità. Le donne si rifuggono, ma io non capisco, ma dov'è questo passo avanti che è stato fatto nella libertà di potersi esprimere? Chiamano uomini, nella maggior parte uomini che hanno un pensiero tetragono, inattaccabile, basato su atti di fede, che invidio, guardate, non è che prendo in giro, figuriamoci, invidio gli atti di fede, ma gli atti di fede non possono essere diffusi. Se l'atto di fede diventa un costume generale, diventa una sorta, è una dittatura del pensiero. Ci sarà qualcuno che ha avuto una vita macerata, complicata, che il diavolaccio ci ha messo la coda 100 volte al secondo e è caduto. Cosa ha avuto in cambio? Qual è stato il problema? Dov'è il diavolo? Ne abbiamo parlato da 40 minuti circa, no, mezz'ora circa, ancora non sono arrivato al punto. Secondo voi la colpa è la debolezza della carne, o secondo voi la colpa è questa sorta di veleno che mina le radici, il fatto che un uomo e una donna possano avere una relazione? Paolo. Pronto. Paolo. Buongiorno. Pronto. Vediamo cosa lei ci riporta su un terreno più condivisibile. Condivisibile non lo so, però praticamente chi si accontenta gode, Nicoletti. Tanto sono tutti uguali, non è che una è dritta e una è storta. Beh, non è così, esattamente così. Questa, più o meno sì. No, questa è una radicalizzazione. Cioè, io vorrei pensieri un pochino più elaborati. Sono tutti uguali, non è vero. le persone no, sono estremamente diverse. Sì, sono, sono completamente d'accordo, sono diverse, però a fin dei conti già trovarne una che non ti rompe i coglioni e ti puoi fidare già è un miracolo secondo me al giorno d'oggi. Dice lei te la tieni stretta. Sì, sì, no, nel senso, io è vent'anni che sono sposato, per carità, tra alti e bassi, sinceramente, e mi ha seguito anche una follia che ho fatto a 50 anni, quella di chiudere baracche e burattini e emigrare in Svizzera, ha lasciato un posto sicuro. Vabbè, lei ha trovato la compagna della vita, non c'è nessun problema. Sì, appunto, è quello che ti dico. Però vedi, chi se la trova, secondo me, deve tenersela, anche perché... Io ti seguo parecchio anche sul discorso, il treno va così, sento delle storie che tante volte mi fanno pensare, cioè se io devo svegliarmi la mattina per stare lì a raccapezzarmi, cosa fare eccetera eccetera, cioè non l'ho mai fatto in 50 anni, calma, adesso lasciare la linea, è chiaro, ci sono delle persone, l'ha detto, chi si accontenta gode, che si accontentano, ma non è detto che oggi l'umanità è fatta solo di persone che si accontentano, qualcuno dice, ma io perché devo accontentarmi, perché devo evitare di avere altre occasioni, come ha fatto Bettarini, nella maniera più rozza che un uomo può farlo, assolutamente, fatto probabilmente per potersene poi vantare o altro, però non si è accontentato pur stando con una persona che tutto sommato faceva parte del mondo dello star system, una bella donna, era un bel matrimonio, avevano i figli e via dicendo, eppure lui ha continuato in maniera compulsiva, non è che lo critico, mica dico lui, metto la croce su Bettarini, lo fanno tutti, lo fanno in tanti, lo possiamo fare in tantissimi, non è questo il problema, voglio capire chi è il vero nemico, è questa carne che comunque ti dà curiosità di conoscere altre cose, carne, curiosità, oppure questa sorta di meccanismo velenoso dell'indifferenziato. Ci abbiamo davanti qualcosa che farà un grande magma in cui nessuno si potrà orientare. 800 24 00 24. Finalmente c'è una donna, ma deve aspettare soltanto un istante, tra poco. Melog, cronache meridiane. 800 24 00 24, riformulo la domanda: qual è secondo voi il vero nemico dell'unione stabile? La debolezza della carne, il desiderio di fare nuova esperienza, la molteplicità degli stimoli che ci fa capire che possiamo anche decidere di conoscere un po' meglio il mondo, oppure la teoria del gender, l'indifferenziazione, l'infinocchimento dell'umanità che ucciderà ogni forma di unione stabile? Elena, buongiorno. Buongiorno. Ah no, scusa, Linda prima c'era. Rimani in ascolto, Elena, anche te. Linda era già in ascolto. Ciao, buongiorno. Eccomi. Allora, io penso non sia né l'uno né l'altro, fondamentalmente. No, voglio uno o l'altro, non voglio terzium non datur. No, io... Non mi veniva che te i figli, vabbè, dimmelo, però la domanda non va elusa, Ma no, ritengo che proprio non siano i due problemi della dissoluzione del concetto di famiglia. Quindi, di qual è secondo te? È un problema di cultura. Il rapporto uomo-donna non ha fatto progressi in qualsiasi forma si manifesti, famiglia, lavoro, è fondamentalmente un problema di cultura. Mettemelo in maniera più pratica, così vuol dire tutto, anche il problema delle vene varicose può essere un problema di cultura, voglio che tu me lo dici in termini concreti. Allora, di esperienza, la famiglia fino adesso fondamentalmente si è fondata sulla sottomissione di uno dei due, in certo, genere, la verissimo, donna. Vero, la famiglia tradizionale questo è, infatti se vedi Adinolfi fa vedere la moglie che gli massaggia i piedi come esempio. Ho letto addirittura un decalogo della Chiesa sul comportamento, certo, giusto della donna. Ma ci prendiamo in giro, la donna deve essere sottomessa, la famiglia tradizionale, coltivare i figli, stare in casa, essere fedele, e l'uomo può essere sì, ma questo è normale. Quindi è questo modello, decaduto questo modello, alla fine... Esattamente. Va bene, ecco. Quindi la donna si è emancipata, si guarda anche intorno, lo è, questo è il fatto. Fondamentalmente sì, ma perché non trova un interlocutore che possa capirla. Sì, ma cosa vuole la donna? Spiegami, dimmi te. Rapporto alla pari, fondamentalmente. Va bene, ci sta, però è sempre qualcosa di vago. Elena, vediamo Elena. Sì, buongiorno. Sono in parte d'accordo con la signora precedente, però purtroppo in sintesi è proprio la debolezza della carne che induce a tradire, ma da ambe le parti. Giustamente fino a un po' di tempo fa l'unico modello sembrava la famiglia creata da uomo, donna e bambini. La cultura cattolica ci dà queste indicazioni, anche se io sono cattolica. Il Signore ci ha fatto liberi, sì, ci ha fatto liberi però di vivere secondo i precetti cattolici. Quindi la debolezza della carne e ovviamente questa emancipazione della donna hanno portato non più solo l'uomo ad avere il diritto di scegliere di avere altre donne, ma anche la donna ha il diritto di scegliere. Quindi questo porta a tutte le conseguenze. Anche perché l'adulterio normalmente si consuma con altre adultere, non con persone libere, quindi è roba che si fa in famiglia, fra famiglie. Quindi... chi ci casca la prima volta, ci cadrà la seconda, ci cadrà la terza. Cioè una volta fatto il grande salto non si torna più indietro. No, si può tornare indietro, ma devi veramente importerlo, devi fare una forzatura su te stesso, soprattutto se hai dei figli, perché hai delle responsabilità. Ecco, però spiegami Elena, perché qua è importante. Sì. Devi rinunciare a qualcosa che ti ha dato tanto gusto in nome di un principio superiore, della stabilità, oppure capisci che hai sbagliato, quindi allora il nemico sarebbe proprio quello, la debolezza della carne. Ma capisci che alla fine sei comunque solo, perché non hai nessuno effettivamente vicino che ti sostenga anche nelle difficoltà. Quindi quando pensi, quando sarò vecchio chi mi cambia il pannolone? Tanto vale tenermi il marito o tenermi la moglie, questo. Triste però, eh. No, deve esserci di più. Cioè ti devi veramente rendere conto che la scelta giusta è veramente avere un rapporto duraturo, perché tramite quello raggiungi quella complicità con l'altro che ti capisce al volo. Sì, ma anche le complicità alla fine svaniscono, adesso non voglio entrare in merito, ma è un'impresa non sempre possibile, molte volte. Il bello di questa impresa è che ci devi lottare tutti i giorni. Va bene, lotta, ho capito. Perché allora... i miei genitori sono insieme da 50 anni. Sì, senti, questa cosa come il primo giorno. Sì, cazzate, eppure scusa, le difficoltà le hanno avute anche loro. Sì, vabbè, ognuno che mi porta i genitori, erano altre generazioni. I tuoi genitori non hanno avuto la vita che hanno avuto oggi chi ha 20 anni, 30 anni. Chiaro, per loro stare assieme è l'unica maniera per avere una speranza di sopravvivenza, ma è un altro mondo. Ognuno mi cita i genitori, che bello, vedo mio papà e la mia mamma, si sono amati da 50 anni, si vogliono più bene. Ma quali ipocrisie, quali menzogne, quali inferni si nascondono dietro queste coppie che manifestano il loro amore di 50 anni, ma nessuno lo sa e nessuno lo dice. Su, Paolo. Buongiorno. Sì. Credo che uno degli equivoci più stranianti su questo argomento sia il confondere la capacità di stare insieme in un legame con l'obbligo di fedeltà indicato dal matrimonio. Per me il matrimonio è una parola della legge, è una, come usucapione o abigeato, ormai sono andati fuori uso. Il matrimonio è un contratto, come non so, la mezzadria piuttosto che la società, sono concetti che un istituto arcaico, che si basa come l'enfiteusi, una cosa del genere. Per tutelare il patrimonio delle famiglie. Matrimonio e patrimonio non per caso hanno la stessa matrice. E oggi la fedeltà coniugale non ha senso. Cioè, ci sono livelli di complicità che vanno molto oltre la banale fedeltà coniugale. Non si può pensare di costruire un legame solido nel tempo solo a partire dalla fedeltà coniugale, che Paolo, è il concetto. È chiarissimo, sì. Paolo, è chiarissimo. Lei dice che il matrimonio esisteva perché esisteva la necessità di salvaguardare la proprietà, il clan, 2000 cose. Oggi che non esiste più sta roba, rimane un istituto vuoto, è come una festa di un santo patrono alla quale non crede più nessuno. Valeria, sì. Buongiorno, Valeria. Buongiorno Nicoletti. Allora, io volevo rispondere un po' a una telefonata di un signore che ha chiamato dicendo che il rischio forte che c'è nelle scuole di non insegnare il modello diciamo di matrimonio, di famiglia tradizionale. In realtà volevo contraddirlo. Io penso che l'omosessualità, l'eterosessualità, bisessualità eccetera risponde a un istinto, a un gusto, e difatti tutti noi siamo stati educati nelle nostre scuole al modello classico, e nonostante ciò esiste l'omosessualità, no? Ecco, non è che trasmettendoci il modello di eterosessualità ci siamo riusciti come modello educativo. Quindi però riguardo l'unione, fra i due grandi nemici, le guerre mondiali, qual è secondo lei quello vero che corrode questa idea, che ha spiegato molto bene l'ascoltatore prima, di contratto di unione generale, che però ormai fa acqua da tutte le parti, al di là degli atti di fede che ascolta? Intanto fa acqua perché il matrimonio è un contratto, è la costituzione della società coniugale, e la monogamia che ci viene imposta Voglio dire, penso che sia sinceramente una questione imposta culturalmente, ma che è sostanzialmente contro la nostra natura di maschi e femmine. Pertanto c'è un'imposizione culturale. Il vero contro natura è l'essere monogami, altro che. Scusi? Esatto, è contro natura essere monogami. Quando noi scopriamo, ecco, perché veniamo, all'esclusività. Perfetto, è chiaro, ma la sigla mi porta via, se no devo troncarla. Ha detto una cosa giustissima. In realtà oggi ci rendiamo conto che l'imposizione della monogamia è qualcosa che ci ribolle dentro. La manteniamo per un atto di fede o un atto di credenza religiosa. Alla prossima!